Choral. Gott, hast du uns getötet durch deinen eigenen Tod, dem Morgen uns gerötet durch deines Blutes Rot. In dir ist Gott gestorben, in dir dem eigenen Sohn. Für uns hast du erworben der Freiheit höchsten Lohn. Chorale. Per noi hai ucciso Dio con la tua stessa morte, ci hai arrossato il mattino con il rosso del suo sangue. In te Dio è morto, in te suo proprio figlio. Per noi hai conquistato il sommo premio della libertà.